questo che in futuro non mi aspetto una salvezza anticipata, una soluzione o un'illuminazione con questo sistema, ma sottoscrivo la premessa che questa difettosa perfezione sia sufficiente e completa in ogni suo singolo ineffabile momento. Di mobilità hanno difficoltà a spostarsi, a 92 anni Joy Collison se ne va in